Capitolo quinto. Il regno divino è in voi, di Lev Tolstoi, 1893. Quinto figlio di un conte e di una principessa, Lev Nikolaevich Tolstoi nacque nella proprietà della sua famiglia a Jasnaja Poliana, in Russia. Persi i genitori ancora bimbo, seguì il resto della famiglia nella città di Kazan, dove studiò fino ai primi anni dell'università. Ma laurearsi non era il suo destino. Lasciò infatti gli studi e cominciò a scrivere. I romanzi che gli accordarono la notorietà in tutta Europa, tra questi ricordiamo Anna Karenina e Guerra e Pace, appartengono alla prima parte della sua vita. Tornò a Jasnaja Poliana e verso i 50 anni ebbe una crisi mistica che lo portò a cambiare il suo stile di vita. Rinunciò al fumo, all'alcol, alla caccia, divenne vegetariano e si dedicò ai lavori manuali. Cominciò ad occuparsi dei figli dei suoi contadini, organizzando una scuola perché ricevessero un'educazione. Cedette la proprietà dei suoi beni immobili alla moglie e ai figli e decise di non conservare più il possesso di nulla. Avrebbe voluto che i diritti d'autore dei suoi romanzi venissero utilizzati dai suoi contadini, perché potessero affrancarsi dalla schiavitù e comprare le terre di Jasnaja Poliana che già coltivavano. Ma questa decisione lo portò ad avere gravi scontri con la moglie e i figli. Nel frattempo aveva cominciato a scrivere opere di contenuto morale e spirituale, nelle quali denunciava il sistema politico e quello ecclesiastico. Dalle sue appassionate pagine, Tolstoi promuoveva la disobbedienza civile, l'abolizione della proprietà privata, il lavoro comunitario e la non violenza. Le opere subirono censure e mutilazioni ed egli fu scomunicato dalla Chiesa russa. Ma il seme del suo lavoro fu raccolto da uno statista di portata immensa, Gandhi. Egli lesse Il regno di Dio è in voi di Tolstoi ed ebbe l'ispirazione per la sua filosofia della non violenza, con la quale liberò, perlomeno nominalmente, l'India dagli inglesi. Il grande intellettuale russo si schierò contro la guerra e contro il servizio militare, contro l'imposizione fiscale e la manipolazione politica. Fu un personaggio scomodo e osteggiato. Così, mentre il governo lo perseguitava, la residenza di Jasnaja Poliana era invece meta di pellegrinaggio da parte di filosofi, studenti, ricercatori spirituali e letterati. Il ritorno al messaggio cristico originario di cui parla Lev Tolstoi nelle sue opere morali non ha nulla a che vedere con la religione, ma rappresenta al contrario un ideale spirituale ecumenico, forse più somigliante appunto al cristianesimo delle origini, come modello sociale che travalica qualsiasi forma codificata e qualsiasi confine geografico, tanto che poté ispirarsene Gandhi, che era indù. L'anima russa è per sua natura un'anima spirituale. Il profondo collegamento del popolo russo, specialmente di letterati e filosofi, con la natura e con le sue leggi lo rendono un veicolo privilegiato per la messa in opera di un ideale basato sull'armonia tra tutte le forme di vita, sul rispetto, la cooperazione e la soddisfazione dei bisogni di tutti, proprio come succede in natura. La spiritualità di Tolstoi mi risuona nel profondo e anche se il suo lavoro ha un contenuto solo in minima parte economico, e per la maggioranza politico e sociale, tuttavia la lucidità e l'assoluta semplicità della sua analisi è sicuramente un supporto per capire il senso successivo del mio lavoro. Egli infatti condanna tanto il sistema socialista quanto quello capitalista, esortando gli uomini a rivolgersi alla pace e alla legge del mutuo soccorso, in un ambito squisitamente spirituale. Ogni volta che Tolstoi parla di Cristo e delle sue leggi, si riferisce non a una religione, ma a un sistema di vita comunitario basato sullo sviluppo spirituale e sulla ricerca della connessione con il divino. Condizio sine qua non, sarebbe impossibile vivere senza denaro, senza proprietà privata e senza difese di nessun tipo. Per l'inasprirsi dei rapporti con la moglie e i figli a causa della sua continua opera di aiuto ai contadini e ai bisognosi, Tolstoi fu costretto a lasciare la sua casa di Jasnaja Poliana. Partì solo e senza nulla, ma durante il viaggio si ammalò e di lì a poco morì nella casa di un capostazione al freddo. Ai suoi funerali parteciparono centinaia di persone addolorate e commosse. Nonostante il tentativo del governo e della Chiesa di occultare la notizia e contenerne gli effetti. Un nobile dall'animo nobile. Ma la luce brilla nell'oscurità, ed è così che la verità comincia a risplendere fra le tenebre del nostro tempo, scrive. Queste confortanti parole sono sicuramente il risultato di un'occhiata al futuro. Infatti, mentre Tolstoj le scriveva, nulla a livello razionale faceva presagire che le cose potessero cambiare. Oggi invece sappiamo che il profeta russo aveva ragione, poiché ai nostri giorni vi è un cambiamento nel livello di coscienza. Mentre tra poco non avrà più alcun valore ciò che invece oggi sembra fondamentale, l'individualismo e tutto ciò che è personale, a breve sarà data priorità a ciò che oggi non è affatto, come l'aiuto reciproco e il lavoro per il bene della comunità. Quando il sistema sarà scoppiato e ci troveremo a fare i conti con ciò che ci garantirà la sopravvivenza, dovremo per forza sbarazzarci degli orpelli, oggetti, capricci, egoismi e consumi inutili, per far posto alla semplicità, alla cooperazione e al concetto di comunità come un unico corpo costituito dall'insieme dei suoi membri. Scrive Tolstoi, se i socialisti e i comunisti considerano come un male l'organizzazione individualista e capitalista della società, vi sono monarchici, conservatori e capitalisti che considerano come un male l'organizzazione socialista e comunista, ed ognuno di questi partiti non ha altro mezzo se non la violenza per fondare un regime a cui tutti siano sottomessi. Scrive ancora. La salute verrà quando, dopo una rivoluzione, gli uomini e le donne saranno obbligati a vivere sotto il regime della comunità dei beni, dell'assenza di ogni governo, del lavoro collettivo e non individuale, e cioè quando si sarà verificato uno degli aspetti della dottrina cristiana delle origini. Ripeto che Tolstoi con dottrina cristiana non intendeva nulla che avesse a che fare con la religione attuale o di allora, o con qualunque altra impostazione religiosa, infatti la Chiesa russa lo scomunicò. Bensì intendeva il modello sociale del cristianesimo delle origini, che divenne appunto il loro stile di vita, che ricorda anche il modello di vita esseno, in cui tutto era in comune, anche la mensa, e dove veniva dedicato tempo in egual misura al lavoro manuale per la comunità e a quello spirituale per l'evoluzione della coscienza. Egli percepì chiaramente il baratro creatosi tra il modo di vivere degli esseri umani e ciò che essi vorrebbero realmente. Ognuno in cuor suo ripudia la violenza e detesta mantenere una macchina pubblica che non serve a nulla se non a mantenere con la forza lo status quo. A che pro pagare militari ed esattori perché ci costringano a fare ciò che non vogliamo? Si chiede. Se ognuno rinunciasse alla proprietà, non ci sarebbe più nessuno che paga le tasse perché non avrebbe nulla con cui pagarle e non potrebbe nemmeno essere punito in quanto nullatenente. Perciò quello che lui suggerisce è una resistenza passiva al sistema, molto visibilmente ereditata più tardi dal Mahatma Gandhi. Egli dice che alcuni cominceranno a non voler imbracciare i fucili e a rinunciare alle loro proprietà per non pagare le tasse, e presto altri li seguiranno perché tutti desiderano che il sistema cambi. Per cambiare la situazione bisogna smettere di collaborarvi. Infatti, dice, non sono gli stessi esattori o i ministri che trascinano gli inadempienti in prigione, ma altri uomini pagati per farlo, i militari. Uomini pari miei, scrive, ai quali essere fustigati spiace quanto a me. È dunque probabile che se io apro loro gli occhi sulla nostra posizione, non solo non mi useranno alcuna violenza, ma al contrario seguiranno il mio esempio. L'affrancamento degli uomini si produrrà precisamente con l'affrancamento di ogni individuo. Quindi, se ciascuno smetterà volontariamente e coscientemente di collaborare al sistema, questo si sgretolerà. Il segreto è cominciare la resistenza passiva, senza aspettare che siano gli altri a farlo. Basterebbe, sostiene il profeta russo, che gli uomini smettessero di preoccuparsi della vita materiale. e che cominciassero a rivolgersi alla vita dello spirito perché l'esistenza possa liberarsi, senza sforzo e senza lotta, dalla menzogna e dall'ipocrisia di un sistema sociale che ci rende infelici. Allora uomini e donne si renderebbero conto che milioni di loro sorelle e fratelli vedono la verità, ma temono di essere gli unici a professarla e quindi attendono che sia qualcun altro a cominciare. Il falso sistema che ci rende infelici, basato sull'ipocrisia e sulla menzogna, resta in vita perché siamo noi stesse e noi stessi a mantenerlo. Smettendo di credere che non vi siano alternative e cominciando a non nutrirlo più con il nostro consenso, il sistema si disferebbe. Scrive Tolstoi ancora, che facciamo per innalzare monumenti e palazzi, tutto ciò non resta lungamente e passa senza lasciare traccia. Non possiamo non vedere che il senso della nostra vita non risiede nell'esistenza materiale, soggetta a sofferenza e morte, né nell'ordinamento sociale. Egli intende chiaramente che soltanto una vita basata sulla ricerca e sui valori della spiritualità può portare naturalmente e senza sforzo alla cooperazione e alla soddisfazione dei bisogni di tutti in perfetta armonia, come succede nella natura e come svilupperò nella mia visione più avanti. I focolari sono rari ancora, scrive Tolstoi, ma si riuniranno in un incendio che, nato da una scintilla, non si arresterà se non quando avrà consumato tutto. I governi sentono già la loro impotenza e la loro debolezza, e già gli uomini si svegliano dal loro torpore e cominciano a sentire la loro forza. Gli stessi esattori delle imposte diventano sempre più incapaci di prendere con la forza la roba dei contribuenti e così diviene sempre più evidente che senza esattori d'imposte gli uomini possono, con una sottoscrizione volontaria, provvedere a tutti i bisogni sociali comuni. E quando tutto ciò diverrà del tutto evidente, sarà naturale che gli uomini si domandino quale utilità c'è a mantenere tutti questi re, imperatori, presidenti e membri di ogni specie, di camere e ministeri, se da tutte le loro riunioni e da tutti i loro discorsi non risulta nulla. E a che giova l'esercito se non vi è guerra, poiché nessuno vuole conquistare nessuno? Più ancora, gli uomini che occupano queste posizioni privilegiate riconosceranno un giorno la necessità di abbandonarle. Né i cannoni né i fucili fanno fuoco da soli, le prigioni non rinchiudono alcuno da sé, i patiboli non impiccano e le chiese non ingannano alcuno da sole, le dogane non fermano, i palazzi non s'alzano da soli. Tutto ciò è fatto da uomini e donne, e quando gli uomini comprenderanno che non si deve farlo, tutto ciò non esisterà più. Secondo Tolstoi, questa non è un'utopia, ma una nuova forma di impostazione della vita verso la quale l'umanità tutta cammina sempre più velocemente. Dipende dagli esseri umani la venuta del regno divino, come egli la chiama, intendendo qualcosa di molto simile al ritorno dell'età dell'oro, delle profezie di tutti i tempi. Quindi inutile attenderla dall'esterno, poiché sono gli esseri umani stessi, con la loro crescita spirituale e di coscienza, ad instaurare la nuova Gerusalemme celeste in terra. Basta a ciascuno di cominciare a fare ciò che deve fare e di cessare di fare ciò che non deve fare, perché tosto, scrive Tolstoi, si stabilisca il regno divino al quale tende naturalmente l'anima di ogni uomo. Che cosa bisogna smettere di fare? È necessario abbandonare tutto ciò che abbiamo? Donare i nostri beni ai poveri? Lasciare le nostre case e i posti di lavoro? Se lo facessimo, saremmo degli eroi, ma Tolstoi si rende conto che non sarà questa la strada, poiché gli eroi sono molto pochi rispetto all'enorme quantità di persone che hanno paura. E allora, qual è la strada? Nel rispondere, egli dimostra chiaramente di avere cognizione, forse non cosciente, ma sicuramente manifesta, del funzionamento dell'energia. Non con un'azione, ma col pensiero si possono cambiare le cose, senza violenza e senza lotte, smettendo di illuderci che ricopriamo cariche e possediamo attività e beni perché ciò è utile alla società, ma cominciando ad ammettere che lo facciamo solo ed esclusivamente perché ciò ci fa piacere. smettendo di pensare che l'esercito sia utile al mantenimento dell'ordine, si sgretola la necessità di attribuire ad altri uomini il potere di arrestarci ed imprigionarci. In poche parole, il segreto è smettere di mentire a noi stessi e di vivere nell'ipocrisia. Già questo comincia a smantellare l'energia che tiene in piedi il sistema, poiché il sistema è basato sulla generale opinione che non ci siano alternative. Quindi, smettendo di alimentarlo con la menzogna e cominciando a riversare la propria energia nella verità a livello di pensiero, lo status quo comincerebbe già a disfarsi, perché gli verrebbe a mancare la sua principale fonte di sostentamento, il nostro limitante sistema di credenze. Quindi, senza dover entrare nell'azione, il regno divino sulla terra si realizzerà grazie al nostro comune pensiero, a cui, con questo libro, spero anch'io di dare un contributo, anche se solo minimamente importante, quanto quello di Lev Tolstoi.